Io stesso sono colui che vi consola, Isaia 51, 12. Il bisogno più importante che abbiamo non è il benessere materiale, ma morale. Noi tutti abbiamo un disperato bisogno di essere amati, compresi, rispettati, ma soprattutto consolati. La consolazione non è proporzionata ai beni che uno possiede, ma allo stato d'animo in cui si trova. Vi sono ricchi che vivono tristi, depressi, sconsolati, vi sono poveri felici, sereni, consolati. Poiché siamo nati per soffrire, come la favilla per volare in alto, poiché siamo quotidianamente alle prese, con inevitabili dolori ed affanni, tutti, più o meno, passiamo periodi nei quali siamo sconfortati, abbattuti, depressi, scoraggiati, demoralizzati, avviliti. Non vi è dubbio, il più grande bisogno che abbiamo non è tanto di risolvere la situazione, anche perché a volte è irrisolvibile, come la morte di un familiare, ma quello di esserne consolati. Sì, la consolazione si presenta nella nostra esistenza come il più grande bisogno morale, spirituale, fisico. Una situazione drammatica si può risolvere lasciandoci comunque sconsolati, ma quando si è consolati non importa se il problema che ci attanaglia persiste ancora. Tanto ormai siamo appagati dalla consolazione. E chi è consolato e felice. Proprio perché la consolazione è il bisogno più forte e impellente che noi abbiamo, la parola di Dio riconosce la nostra umanità, o come dice il salmista, l'Eterno. Conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere, Salmo 103,14. Noi tutti siamo fragili come un bicchiere di cristallo, sensibili come gli occhi di una chiocciola, delicati come un petalo di rosa, instabili come i semi del tarassaco, ai quali basta un piccolo venticello per far sì che volino via. Siamo mutevoli come l'umore di una donna, deboli e indifesi come un verme. Questa fragilità, sensibilità, instabilità, mutevolezza, debolezza, ci rendono soggetti al continuo bisogno di essere consolati, confortati. Il grande predicatore del XIX secolo Charles Spurgeon di Londra, che ha condotto migliaia di anime alla conoscenza di Cristo, soffriva di tanto in tanto di profondi stati di depressione. Non era certamente perché vivesse lontano da Dio, ma, anche lui, soggetto a leggi fisiche e morali, aveva una forma particolare di gotta reumatica, aveva bisogno di conforto. Non vi è uomo o donna, per forte che essi siano, per quanto siano emulazioni in ogni campo, compreso quello della fede, come furono Isaia e Mosè, che non abbia bisogno di essere consolato. Anzi, il credente più fedele è, forse, colui che maggiormente è esposto a depressione e scoraggiamento spirituale. La consolazione non è solo utile, ma indispensabile. Chi non è consolato vive una vita d'inferno, nutrendo spesso un odio o rancore che rendono buio e nuvoloso, ogni giorno radioso, e, alla fine, a volte arriva a gesti estremi come il suicidio o l'omicidio. E un dramma. In questo malato mondo ci è disperatamente bisogno del farmaco della consolazione, che non è una medicina supplementare, ma l'unico ingrediente di cui abbiamo bisogno ogni giorno, ogni istante. Chi non è consolato è spiritualmente anoressico. Leggendo la parola di Dio sotto quest'ottica, è sorprendente notare quanto Paolo, nelle sue lettere, parli di consolazione. Nella seconda lettera ai Corinzi, l'Apostolo adopera, in solo 4 versetti, la parola consolazione per 10 volte. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. 2 Corinzi 1:1-7. L'Apostolo Paolo non ha, come qualcuno potrebbe pensare, ritenuto la consolazione un atto di debolezza, ma uno strumento per glorificare e servire Dio. L'Apostolo dei Gentili mette in evidenza che il Dio dei cristiani sia innanzitutto il Dio delle misericordie, il Dio di ogni consolazione. Quelle ogni mette in enfasi come noi abbiamo bisogno di essere consolati in mille modi e in mille maniere. Inoltre, l'Apostolo considera che l'essere consolati non ci sia dato come un'esperienza da tenere gelosamente in uno scrigno solo per noi, ma, dopo averla sperimentata, che noi possiamo e sappiamo consolare chi si trovi, a sua volta, in qualsiasi afflizione. Consolati, per consolare, confortati, per confortare, aiutati, per aiutare. Questo è il grande compito di chi ha conosciuto l'amore di Dio e le sue consolazioni. Siamo stati consolati, sappiamo noi consolare, aiutare, confortare, abbiamo noi questo obiettivo? Stiamo facendo questo ora, nell'ambito della Chiesa? E intorno a noi, se la risposta è affermativa, gloria a Dio. Se invece siamo insaziabilmente bisognosi di consolazione, se, come un'ape, abbiamo bisogno del continuo di succhiare del nettare altrui per soddisfare un insaziabile bisogno d'amore, allora dobbiamo prima di tutto essere consolati da Dio. Perciò dobbiamo, al più presto, conoscere come Dio consola. In queste riflessioni vogliamo considerare i metodi che Dio usa per consolarci in questa valle di lacrime e ombra di morte, tramite la sua parola, i fratelli in fede, il ritorno di Cristo, il suo modo di agire, la sessualità e la sua presenza in cielo. Vediamo in modo particolareggiato ognuno degli aspetti sopracitati. 1. Dio ci consola mediante la sua parola, Romani 15:1-4. Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Purtroppo sono pochi coloro che hanno compreso il valore della parola di Dio. E chi non la legge, perché crede che sia una perdita di tempo, chi non la trova attinente alle problematiche di oggi, chi vede la lettura come un pesante ordine di Dio. È vero che Dio ci ordina di leggerla ogni giorno, ma Egli non ci ha dato una simile prescrizione perché sia contento quando conosciamo la sua volontà, ma perché, tra le tante cose a noi circostanti, la parola di Dio ha il potere di consolarci. Noi abbiamo bisogno di essere consolati, ci rendiamo conto di questa necessità, ma purtroppo ci rivolgiamo ad altre fonti, che non consolano, a persone che non possono darci una parola di consolazione. Per cui, faccenda molto strana, la parola di Dio rimane l'ultima spiaggia della nostra ricerca, finendo in questo modo per essere ritenuta solo come una incerta possibilità tra le tante incerte sponde a cui siamo approdati. La parola di Dio deve essere letta ogni giorno, nello stesso modo in cui ogni giorno mangiamo e beviamo. E, come il cibo, una volta ingerito, produce, senza che noi ce ne avvediamo, benessere al nostro corpo, così la parola di Dio, entrando nella nostra mente e nel nostro cuore, produce un benessere spirituale e fisico di cui non siamo coscienti. In questo benessere, cosciente, è pure l'opera della consolazione che lo Spirito Santo opera nel nostro cuore. Non a caso lo Spirito Santo è stato definito da Gesù Cristo il Consolatore. Se sei afflitto senza speranza, se hai bisogno di essere consolato per una particolare circostanza, hai a portata di mano il più potente farmaco per la tua anima, capace di renderti sereno, preparato per affrontare le prove della vita. Stupenda la testimonianza del salmista. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse venuto in mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Salmo 94, 16-19. Si ricordano numeri di telefono, nomi di personaggi di spettacolo e di sport, ricette di cucina a centinaia, ma vale la pena imparare a memoria quanto il salmista ha detto, perché prima o poi tutti avremo dei malvagi che ci faranno opposizione, dei Golia da vincere e, in quel momento, la nostra mente sarà confusa. Ma le consolazioni di Dio, espresse nella sua parola, saranno le sole a rincuorarci. La consolazione è a nostra portata. Se non ce ne serviamo, non alziamo il pugno contro Dio perché siamo affamati di conforto, di incoraggiamento. La mensa è brandita. Spetta a noi allungare la mano per prendere il dono. Una mano che arriva fino alla nostra Bibbia. 2. Dio ci consola, tramite i fratelli Romani, 1:8-12. Prima di tutto, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Perché Dio, a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio, mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi, perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, affinché siate fortificati. E questo è per essere in mezzo a voi consolato insieme mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. E, fuor di dubbio che l'Apostolo Paolo abbia era un uomo a cui lo Spirito Santo attestava in ogni città che gli aspettavano legami e tribolazioni, Atti 20 e 23. Per questo, poteva avere tutte le ragioni di essere sconsolato e demotivato. Eppure, oltre a trovare le consolazioni nella Scrittura, trovava conforto anche nella comunione fraterna. Comunione fraterna sembrano due parole strane e minacciose. Alcuni, quando si parla di comunione fraterna, vedono rosso. Alcune esperienze negative nell'ambito della comunità alla quale appartengono li hanno vaccinati verso un amore genuino e sincero. Era prevedibile, Gesù lo aveva profetizzato, e perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, Matteo 12:30. È molto difficile, oggi, stabilire la comunione fraterna, per tante ragioni, posizioni teologiche diverse, insofferenza nei confronti del prossimo, caratteri opposti e negativi, individualismo, tutte cose vere. Ma, a mio avviso, vi è una ragione fondamentale per cui, oggi, la comunione fraterna non è come quella al tempo degli Apostoli. Faccio una simile ardita affermazione, partendo dal presupposto che anche al tempo degli Apostoli gli uomini non fossero diversi da oggi, per cui la spiegazione è da ricercare altrove. Qualcosa però, rispetto al periodo apostolico, è cambiato: l'atteggiamento del mondo nei confronti dei cristiani. Oggi il mondo, inteso come atteggiamento negativo dell'uomo nei confronti di Dio, non è così apertamente avverso. Anzi, le persone si avvicinano al Dio dei cristiani e al suo messaggio interessati con una morale cristiana come volessero compiere la sua volontà. Questo atteggiamento disorienta molti figli di Dio, al punto che non vedono necessario insistere sul messaggio evangelico, in cui ogni persona è dichiarata perduta dalla nascita. Dal canto loro, i figli di Dio, non essendo apertamente perseguitati, adagiandosi alle comodità della vita, sono soddisfatti della buona opinione che, di loro, hanno le altre persone, non trovando più così necessario cercare la consolazione nella comunione fraterna. Poiché la comunione fraterna è spesso difficile e traumatica, essi preferiscono una convivenza serena con il mondo che una continua tensione nell'ambito delle relazioni fraterne. Se la comunione fraterna non consola più i figli di Dio, significa che essi trovano consolazione altrove, e cioè dal mondo, nel mondo, con il mondo. 3. Dio consola tramite il ritorno di Cristo. 1 Tessalonicesi 4, 13-18. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Parlare del ritorno di Cristo può sembrare pura retorica, come se fosse un argomento stabilito per... Ma l'argomento del ritorno di Cristo ha un valore terapeutico. Consola chi vi pone la propria fede. Affinché possa consolare, dobbiamo prima comprendere cosa ci sconforta, cosa ci sconsola. Al giorno d'oggi è difficile dirlo, se vogliamo essere obiettivi. Non abbiamo tutto, ma non manchiamo quasi di niente. Da mangiare e da vestirci. Necessità indispensabili per essere contenti ce ne sono in abbondanza. All'inizio del XXI secolo abbiamo ogni sorta di comodità e di agi. Poiché viviamo in una società dove la tecnologia ha sostituito l'indispensabilità della manodopera e di quella degli animali, ci troviamo ad avere più tempo per dedicarci ai nostri svaghi e capricci. Ciò che non era possibile un secolo fa, oggi, è alla portata di ognuno di noi. Eppure, qualcosa non va. L'Apostolo Paolo scrisse, nella sua seconda lettera a Timoteo, «Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati, 2 Timoteo 3:1-5. Da un punto di vista Paolo ha fatto delle previsioni sbagliate. Egli ha detto che, negli ultimi tempi, sarebbero arrivati dei momenti difficili. Per quanto possiamo capire, non siamo mai stati così bene come al giorno d'oggi. Abbiamo le macchine per muoverci, gli aerei per raggiungere enormi distanze, che una volta venivano percorse malamente su dei cammelli o cavalli. Abbiamo abbondanza d'acqua potabile in casa, quando una volta occorreva percorrere molta strada per trovarne, e la qualità era quella che era. Ma i tempi difficili a cui Paolo si riferiva riguardavano la corruzione morale, cui gli uomini sarebbero andati incontro. E vivendo con degli ingrati, con coloro che pensano solo a se stessi, con dei superbi, con dei calunniatori, con chi non ha un cuore sincero, anche se si ha ogni bene materiale, la vita è veramente dura. In definitiva, la vita è grama, dolorosa, travagliata, proprio perché l'uomo non rispetta le regole di Dio. Ora, se la vita è già di per sé difficile, aggiungendo anche la malvagità degli uomini, essa diventa un inferno. Il peccato, oltre a disonorare il Creatore, rende la vita e la convivenza tragica. Apprezziamo la nostra esistenza come un dono di Dio, ma vorremmo che tutta questa malvagità terminasse. Ed è con questa speranza che il ritorno di Cristo diventa, per chi ci crede, una consolazione. Con il suo ritorno Gesù Cristo risusciterà chi ha posto fede in Lui, metterà fine al peccato degli uomini, instaurerà sulla terra la tanto aspirata giustizia. Chi non vede nel ritorno di Cristo una consolazione non ha veramente creduto in Lui. 4. Dio ci consola tramite il suo operare. Salmo 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male. Perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Avvalendosi delle immagini del pastore, Davide riflette, in questo salmo, sui numerosi benefici e le benedizioni che l'Eterno gli accorda nel corso della sua vita. Riconosce di ricevere un nutrimento spirituale, la sua guida, il dono di camminare nelle sue vie, la sua presenza anche nei momenti più bui e pericolosi della sua vita. Ma, solo considerando gli strumenti abitualmente usati dal pastore per condurre le pecore, egli parla di consolazione. Ogni pastore ha due strumenti per proteggere e condurre le sue pecore, il bastone e la verga. Molto si è detto in relazione a questi due arnesi, soprattutto riguardo ad un loro ipotetico senso simbolico, ma, molto probabilmente, essi servono al pastore per due specifiche funzioni, guidare e proteggere il gregge, e, su questi due aspetti che possiamo riflettere, per ricevere le consolazioni di Gesù Cristo. Mi riferisco a Gesù Cristo, e non tanto a Dio, perché è fuor di dubbio che Gesù si sia definito il buon pastore. Inoltre, nella lettera gli Ebrei, viene definito il grande pastore delle pecore, Ebrei 13 e 20, mentre l'apostolo Pietro lo definisce il supremo o sommo pastore, 1 Pietro 5, 4. Affermando che Dio è il nostro pastore, facciamo un'affermazione imprecisa. Dal momento che la parola eterno nelle versioni ebraica è Yahweh, e il termine Signore è riferito a Cristo, è fuor di dubbio che il buon pastore sia Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Che Gesù Cristo sia Dio, che sia partecipe della natura trinitaria, è fuor di dubbio. Ma sostenere che Dio sia il nostro pastore può indurre qualcuno a pensare che il Padre e lo Spirito Santo siano il nostro pastore. La Scrittura non ci permette tale conclusione. Il Dio Trino ha fatto e fa ogni cosa tramite Cristo. È in quest'ottica che dobbiamo pensare a Dio. Proprio perché Gesù Cristo è il grande pastore delle pecore, chi pone fede in Lui, chi segue la sua luce, trova ogni giorno quella consolazione di cui ha bisogno. Ogni volta che considero la vita travagliata di tanta gente che sta solo ricevendo le conseguenze di una esistenza vissuta nel peccato, contrapponendo a questo la considerazione che, in quanto sono diventato un suo figlio, il mio Dio non mi tratta secondo i miei peccati, nel mio cuore nasce una riconoscenza e consolazione, che mi spingono ad inginocchiarmi per lodare, lodare, ringraziare, per poi continuare a ringraziare e lodare nel corso della giornata, non solo. Quando poi rifletto sul modo in cui Dio mi corregge, mi ammaestra, per quanto subito è vero vi sia, in me un istinto di rifiuto, sono ancor più profondamente consolato nel considerare come, alla fine, tutto sia tornato per il mio bene. Sentirmi amato, per il solo fatto che esisto, sentirmi protetto da mio buon pastore, sono sentimenti che consolano profondamente il mio essere, per cui mi rallegro in ogni situazione, sia favorevole che sfavorevole. Dio mi consola tramite il suo modo di agire. E Gesù Cristo, il mio buon pastore, è colui che me lo ha fatto comprendere. 5. Dio ci consola mediante la nostra sessualità. Genesi 24, 67. Isacco introdusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre e la prese con sé. Ella divenne sua moglie ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Inutile nasconderlo. I due grandi poli di attrazione in tutta la creazione sono nell'ambito della sessualità. Maschio e femmina. Tutto il creato è sessuato. Il regno vegetale, animale e la razza umana. Per questo chi rifiuta la sessualità disprezza un principio di Dio e non vive secondo il piano del Creatore, il cui desiderio è che siamo pienamente maschi e femmine. La sessualità ci è stata data da Dio non solo come espressione della nostra personalità, ma anche come mezzo di consolazione. Questo aspetto, bisogna dirlo, è più marcato nell'uomo che nella donna. Isacco stava vivendo il periodo di lutto per sua madre. Se vissuto sinceramente, il lutto per un genitore è di grande tristezza. Proprio in quel periodo, ad Isacco fu data, in moglie Rebecca, una fanciulla, definita molto bella d'aspetto, Genesi 12:16. Isacco introdusse Rebecca nella sua tenda, il che voleva dire che la prese in moglie, e fu, così, consolato della morte di sua madre. Molto strano, dirà qualcuno. Assurdo, dirà un altro. Cosa c'entra la morte di un genitore con il sesso? Il sesso? Non è sesso? Non è un istinto naturale, datoci da Dio, per la procreazione della specie? È vero. Ma la sessualità non è solo un fatto biologico. Essa ha il potere di influenzare anche la nostra anima e il nostro spirito. È capace di consolare. Una donna, un giorno, mi confidò come trovasse assurdo e scandaloso che suo marito, nel giorno del funerale di sua madre, l'avesse cercata ancora. Non capiva. Era confusa. Avesse almeno rispettato il giorno del funerale di sua madre, non facendo sesso. Fare quella cosa proprio nel giorno del lutto non era certamente un modo per onorare la sua memoria. Ma lei era una donna. Non aveva capito, come del resto molte donne e mogli, che il sesso per un uomo è motivo di consolazione, oltre ad essere un'espressione d'amore in forma maschile. Se la donna, e soprattutto le spose cristiane, comprendessero questo aspetto, farebbero soffrire molto meno i loro mariti in questo campo. Un'altra moglie non capiva come mai suo marito, stanco, sfinito, continuasse a cercarla sessualmente. Ma io, quando sono stanca, non vedo l'ora di andare a letto e farmi una bella riposata, mi confidò. È vero, ma lei ragionava con una mentalità da donna e non trovava, nel sesso, quella consolazione che trova l'uomo. A volte, proprio perché stanco, stressato, preoccupato, l'uomo fa sesso, e non necessariamente per una brama sessuale illecita. È, però, anche vero che, nonostante la donna in generale e secondo il naturale piano di Dio sia meno incline al sesso, essa abbia comunque bisogno di essere penetrata. Questo può far rabbrividire qualche moralista, ma negare l'aspetto femminile di una donna non aiuta a risolvere quei conflitti così frequenti nell'ambito del matrimonio. La Scrittura riconosce anche a lei l'incontinenza sessuale, 1 Corinzi 7:8-9. Anche se è vero che la sessualità di norma non sia data alla donna, specificamente come mezzo di consolazione, generalmente infatti ella ha un'altra forma di consolazione, avere figli. Vi è nel libro dei Proverbi un'affermazione che può forse mettere in imbarazzo qualche moralista: la sanguisuga ha due figlie che dicono «dammi, dammi». Ci sono 3 cose che non si saziano mai, anzi 4 non dicono mai basta. Lo Sheol, il grembo, cioè utero sterile, la terra che non si sazia di acqua e il fuoco che non dice mai basta. Proverbi 30:15-16. Il proverbio vuole significare che, generalmente, la donna che non ha mai avuto figli non si ha mai sazia dei rapporti sessuali, non tanto per una sfrenata passione, ma perché con quell'atto cerca una progenie. Certe riflessioni al giorno d'oggi fanno sorridere. Ma una donna che ha marcato il senso naturale e divino della maternità non sarà mai consolata, fino a che non avrà adempiuto al grande mandato di procreare. In questo modo il sesso, come dono di Dio, adempie mirabilmente al suo scopo, consolare l'uomo e la donna, anche se in forme diverse. Ne sanno qualcosa quelle coppie che non possono avere figli e li desiderano ardentemente. Non solo. Quando a Bathsheba morì il figlio, nella Scrittura leggiamo: poi Davide consolò Bath Sheba, sua moglie, entrò da lei e si coricò insieme. Così ella partorì un figlio, che egli chiamò Salomone, 2 Samuele mezzogiorno e 24. A volte, per la perdita di un figlio, i genitori, ma soprattutto una madre, possono trovare consolazione con un altro figlio. Accettiamo il sesso come strumento di Dio per la nostra consolazione. 6. Dio ci consola quando saremo alla sua presenza, Luca 16, 20-25. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe, ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. E, essendo tra i tormenti nell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse: «Padre, Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali, ora invece egli è consolato e tu soffri. Le consolazioni di Dio su questa terra sono temporanee, efficaci sì, ma inservibili per quando moriremo. In cielo avremo bisogno di altre consolazioni. Non credo che, quando saremo morti, dimenticheremo tutto ciò che ha caratterizzato la nostra esistenza terrena». L'apostolo Giovanni, che scrisse l'Apocalisse, ebbe il privilegio di vedere alcune cose che succederanno nel cielo. Ecco cosa scrisse al capitolo 6. «Quando egli aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi, a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e gridarono a gran voce dicendo: "Fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra?" Apocalisse 6, 9-10. Questi martiri, che erano alla presenza di Dio, chiedono giustizia per essere stati uccisi causa la loro fede. Prendendo alla lettera ciò che è scritto, e non si può fare diversamente, notiamo che i martiri non si siano dimenticati degli avvenimenti accaduti durante la loro permanenza sulla terra. È vero che è scritto: «Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più, e non verranno più in mente». Isaia 65, 17. Ma non penso che questo sia da intendersi in senso assoluto. Diversamente, come potrebbero adorare Dio i salvati se non si ricordassero di essere stati dei peccatori perduti? Come potrebbero essere giudicati i morti sulla base delle loro opere se queste non venissero ricordate? In cielo ricorderemo molte cose di quando eravamo sulla terra, per cui, con un adeguato confronto tra il passato e il presente, saremo consolati. Saremo consolati perché finalmente non ci saranno più morte, né cordoglio, né pianto, e coloro che sono alla presenza di Dio avranno una eterna consolazione, un eterno conforto. Ma questo sarà possibile solo per coloro che, prima, avranno sofferto, pianto, per Dio, per il suo regno e la sua giustizia. Gesù lo disse: «Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati». Tutti soffriamo, tutti facciamo cordoglio, perché la vita è piena di inevitabile sofferenza, ma saranno consolati solo coloro che avranno vissuto per la causa di Dio, per coloro che, come è scritto, per amor di Gesù Cristo sono tutto il giorno messi a morte, sono stati reputati come pecore da macello. Romani 8 e 36. Come non vi può essere riposo per chi non è stanco, come non può essere dissetato colui che non ha sete, così non può essere consolato chi non ha sofferto per amore di Cristo. Alcuni figli di Dio che, ora, sono fuggiti ad ogni responsabilità, ad ogni impegno, che hanno cercato una vita comoda, facile, esente dalle sofferenze di Cristo, che comunemente si trovano testimoniando, predicando la parola di Dio, servendo la Chiesa, essendo fedeli, onesti, sinceri, si troveranno a disagio fra coloro che saranno consolati. Non posso terminare queste riflessioni senza fare un accorato appello. Vorrei che tutti fossero consolati, anzi appagati, come lo sono io. La presente consolazione è un anticipo dell'eterna consolazione. Ho trovato l'appagamento nel giorno in cui ho affidato la mia vita a Gesù Cristo. Trovo consolazione ogni giorno quando leggo la parola di Dio, quando mi trovo con i fratelli che hanno la mia stessa fede, quando penso al ritorno di Cristo, quando ho rapporti sessuali, quando considero come Dio opera e quando penso che andrò alla presenza di Gesù Cristo, il mio Dio. Non sono un privilegiato. Queste consolazioni sono alla portata di tutti. L'Eterno Dio dice a chiunque: io stesso, sono colui che vi consola. Se vivi da sconsolato, afflitto, abbattuto, se senti il peso dei tuoi peccati, della tua superficialità, della tua incoerenza, afferra, per fede, la vita abbondante che Dio ti offre in Gesù Cristo, e le consolazioni che riceverai saranno come un morbido cuscino. Non toglieranno il problema, ma attutiranno i colpi inattesi della vita. Maggio 2003. Ennero.